in capra e merindo, e spada e colle e vita, ingiustissimo padre, padre, se pur dirti, de Gio ribei a ragion, a natura, al sangue tuo. E tu, tanto t'arroghi, e fino all'occhio drizzi pensier, reprimi a mai insana superba idea, sperduta! E questo quell'amor fuor di contrasti, per cui seguì, abbandonato.